Benvenuti su Radio Bawalla. Ci dicono che abbiamo avuto tanti problemi e quindi la puntata che avremmo dovuto fare in un'ora, visto che per 45 minuti abbiamo parlato da soli senza che voi poteste sentirci, tenteremo di farla in un quarto d'ora, ma senza per questo sacrificare la qualità. Vi presento subito i miei compagni di viaggio, che sono come ieri Marco, Eros. Ecco, esattamente come ieri ci troviamo da Piazza Carignano a Torino, nella location particolare dell'X-Media Van, questo camioncino bianco con dentro tutta la NASA di tecnici, di mixer e tutte queste cose qua. Esatto, noi siamo qua per la terza edizione di Biennale Democrazia, utopico possibile, quindi con il punto interrogativo. E a proposito di utopico possibile, oggi ragioneremo molto sul tema delle discriminazioni e della parità di genere e anche razziale, delle discriminazioni razziali. Abbiamo qua con noi un esperto di cinema, anzi, come direbbe Nando Dalla Chiesa, presidente onorario di Libera, il più grande esperto di cinema e mafia in Italia, e gli chiederemo di farci una piccola recensione di un film molto importante, un film che racconta una storia molto importante, quella dell'emancipazione del popolo afroamericano ad opera di Lincoln. Andrea, raccontaci, Andrea Zummo. Ma sì, allora Lincoln è un film che è uscito qualche mese fa, Steven Spielberg alla regia, ed è un film che non è una biografia vera e propria, si concentra in realtà su un periodo piuttosto limitato, sugli ultimi 4 mesi di vita del presidente americano Abramo Lincoln, e in particolare sui mesi nei quali lui, con grande ostinazione, ormai rieletto per il suo mandato e per il suo secondo mandato, deve mandare in votazione l'emendamento che di fatto abolirebbe la schiavitù. Dalla sua parte c'ha l'appoggio del suo partito, il Partito Repubblicano, ma ci vogliono dei voti da conquistare nello schieramento avversario tra i democratici. Cosa strana sulla quale riflettere oggi: all'epoca i repubblicani erano abolizionisti convinti, mentre i democratici non troppo. Il film di Spielberg infatti si concentra su tutta la battaglia parlamentare che è necessaria per arrivare all'approvazione di questo famoso emendamento, per il quale Lincoln non è disposto a sacrificare niente. È la priorità sulla quale arrivare, forse anche perché sarà il pretesto per far finire la guerra di secessione, che ancora in corso sta mietendo tantissime vittime. Spielberg riesce a costruire un film su un meccanismo particolare che forse per noi occidentali europei, se non conosciamo così bene la storia di quel periodo americana, è un po' difficile da comprendere, ma è sicuramente un film molto affascinante nel ritrarre la personalità di un uomo politico straordinario, fuori dal comune, con una determinazione straordinaria, con una capacità e un senso dello humor che lo portava a fare battute capaci di spiazzare i suoi interlocutori ma anche i suoi alleati politici, impersonato da uno straordinario Daniel Day-Lewis, che per questa performance si è guadagnato la sua terza statuetta nella notte degli Oscar. Spielberg racconta quindi una storia che 150 anni fa, perché siamo nel 1865, poteva davvero sembrare utopia, ma che evidentemente è stata l'inizio di un cammino molto lungo, che poi dall'abolizione della schiavitù ha portato in diversi decenni a risultati nel campo dell'uguaglianza e dei diritti, anche di fronte alle differenze che non sono considerate razziali ma che evidentemente accomunano tutte le persone a prescindere dal colore della pelle. Spielberg racconta un film coraggioso, forse un po' lungo e un po' complesso, ma comunque da guardare. Grazie Andrea. Grazie mille. Ma a me viene in mente che, a proposito di utopie legate al tema dell'emancipazione razziale, in tutti i film di fantascienza il presidente degli Stati Uniti o del mondo è di colore, e invece la realtà ha anticipato l'utopia, perché negli Stati Uniti d'America c'è stato il primo presidente afroamericano, che è Obama, e a proposito è al secondo mandato. E a proposito della lotta per l'emancipazione, vi lanciamo una pillola, ovvero il discorso di Martin Luther King tradotto in italiano in simultanea. E perciò, amici miei, vi dico che, anche se dovrete affrontare le asperità di oggi e di domani, io ho sempre davanti a me un sogno. È un sogno profondamente radicato nel sogno americano, che un giorno questa nazione si leverà in piedi e vivrà fino in fondo il senso delle sue convinzioni. Noi riteniamo ovvia questa verità, che tutti gli uomini sono creati uguali. Io ho davanti a me un sogno, che un giorno, sulle rosse colline della Georgia, i figli di coloro che un tempo furono schiavi e i figli di coloro che un tempo possedettero schiavi sapranno sedere insieme al tavolo della fratellanza. Io ho davanti a me un sogno che un giorno perfino lo stato del Mississippi, uno stato colmo dell'arroganza, dell'ingiustizia, colmo dell'arroganza dell'oppressione, si trasformerà in un'oasi di libertà e giustizia. Io ho davanti a me un sogno che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno in una nazione nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per le qualità del loro carattere. Ho davanti a me un sogno, oggi. E questo era il sogno di Martin Luther King, il famoso discorso I Have a Dream. Tra l'altro Martin Luther King ha assassinato il giorno del mio compleanno, 4 aprile 1968, in piazza Carignano ci sono tutta una serie di borse dedicate ad alcuni episodi chiave della storia universale. Per chi volesse sono acquistabili al costo di 10 euro e chiaramente per una buona causa. Certo, sono anche molto belle, molto colorate, insomma se passate di qua, oggi è anche una bella giornata, una passeggiata si può fare. Ci troverete e insomma potrete vedere con mano. Ok, a proposito di borse, switchiamo argomento e quindi cominciamo a parlare di donne. Non per essere svilenti, chiaramente. No, per carità. Anzi, ci piacciono belle e con dei bei gadget addosso. A proposito di donne, oggi c'è stato un bellissimo appuntamento dedicato al tema delle donne e del lavoro. Il tema dell'emancipazione femminile, che in Italia a livello giuridico è iniziato in modo entusiastico con il referendum del 1946, quindi con la prima volta in cui le donne hanno potuto votare, con il referendum tra monarchia e repubblica. Una rivoluzione che però non sembra non essersi ancora completata. Oggi le ospiti, la Saraceno e la Del Boca, parlavano di un quadro istituzionale che sancisce la parità di genere. Parità di genere però che a livello effettivo non è data alle donne. E pensate che la media degli stipendi di una donna, parità di educazione rispetto a un uomo, è di 1100 euro, rispetto agli uomini 1500 euro. Quindi una differenza che c'è ed è chiara e non casuale, probabilmente. Esatto, non è casuale, però le utopie sono diversamente distribuite nel mondo. E in Svezia nel 2003 c'è stato il caso delle quote azzurre, perché Tobias Krantz, allora ministro dell'istruzione svedese, ha istituito il 40% dei posti all'università dedicati agli uomini, perché erano troppo pochi gli uomini che frequentavano rispetto alle donne. La legge è stata soppressa, però questo per dire che ci sono posti dove invece i problemi sono al contrario e il gentil sesso in realtà è sesso dominante. Certo, quindi questa quest'utopia, quella che noi dal nostro punto di vista in qualche maniera vediamo come un'idea particolare, non dico un'utopia ma un'idea particolare, lì è diventata poi realtà. Sì, decisamente. Siamo la Svezia è la nostra utopia, o meglio l'utopia delle donne che sono alla ricerca degli stessi diritti degli uomini. Va bene, allora io direi che a proposito di Svezia lanciamo un pezzo che è Jonet con Swedish Ladies. All I need is a cam to record it for you, show you what I'm talking about, huh. You know I had to make this song right here. You know I had, to make you girl. Somebody else. Why complain about the cold when we got the most beautiful ladies from all over the globe? This song is dedicated to all of y'all. Whether you were black or white, short or tall, brunette to blonde, slim or thick, stressed or calm. But I'm not talking about those with a bad attitude, wearing hoochie clothes. Don't know how to talk, act like a man and spit when they walk. I'm talking about the classic types with a proper outfit when the smile is like God send down announcements for all men to behave. Funny see 10 men get straight right away. Our ladies, all it takes to get some order up in the place. When the sky's dim, she'll put a smile on your face. I've been all around the world and seen a lot of faces, but there is no place like Sweden and Swedish ladies. I got nothing but love for you. I've been all around the world and seen a lot of faces, But there is no place like Sweden and Swedish latest. I got nothing but love for you. London is better than summertime. Chill downtown with some friends of mine. Drinking soda, admiring all the ladies. At the bus stop, right in front of us, waiting. Giggling, playing with the hair. And with no day of wait, I was there. It's kinda cute though, with the innocent look when they know it. Checking out the cooler. Sweet top, tight jeans, high heels, and a matching bag. All it takes for me to start a act. I love it when they're playing hard to cash. Won't even give out the number to the start a rap. Stays low, with a twinkle in the eye. I won't lay low. I've been a singer for a while. Smiling to my camcorder. So I can't show what I mean from Rome to California. I've been all around the world and seen a lot of fans. But there is no place like Sweden and Swedish ladies. I got nothing but love for you. I've been all around the world and seen a lot of faces. But there is no place like Sweden and Swedish ladies. I got nothing but love for you. Favorite spot, this is shopping mall. Buying ice cream, turning my iPod on. Kicking back, observing nice things. Every other minute, it's like being hit by lightning. It's a beautiful sight. So I have happy girls to the left, in the front, to the right. That makes them feel better than having cheddar to spend. Walking out the store with two bags in each hand. Damn, girls, what the names be? Lisa, Maria, Stephanie, post for my cam. Before you're leaving, I'm on the mission to show the world girls from Sweden are the most delicious. So that they give no reason for people to be suspicious. Era Johnny con Swedish Ladies per celebrare le ragazze svedesi di cui parlavamo prima. Cosa succede domani, quindi? Sì, per appunto, riassumiamo tutto. Che cosa succede nella giornata di domani? Allora, innanzitutto una piccola cosa. Stasera, tra mezz'ora, abbiamo i Quindi in concerto direttamente da Piazza Carignano. Quindi gruppo con canzoni registrate in Creative Commons, che verrà trasmesso su Radio Bawalla. Domani, di nuovo, sarà una giornata ricca di appuntamenti. Ve ne segnaliamo due in particolare. Il primo incontro con Baiani e Bianchini, le utopie dei giovani della Biennale all'Avogadro nella mattina, e invece nell'aula, sempre nella magna dell'Avogadro, nel pomeriggio alle 15, le utopie della e-democracy a cura del Centro Nexa con De Martin e Rodotà. Tra l'altro, se volete, potete consultare l'intero programma sul sito biennaledemocrazia.it/eventi. Come sempre, anche ovviamente date un'attenzione ai social network, andate a mettere un mi piace non soltanto a Radio Bawalla su Facebook o seguitelo su Twitter con @RadioBawalla, ma cercate anche Biennale Democrazia e Acmos. Grazie a tutti. Allora, ringraziamo tutti, è stata una puntata, come avrete capito, un po' particolare, super condensata. Domani sicuramente riusciremo a offrirvi lo spettacolo completo, tentando di farci perdonare anche di oggi. Ciao a tutti. Un saluto, esatto. Ciao a tutti, buona serata. Buona serata, buona serata. Vediamo domani. E questi sono The Long Now con Harrows.